In questa vita terrena, in questo mondo ascolta tutto trema, mentre compongo e ricompongo sotto il lume di questa candela, la cera che si scioglie sulle pagine, l'immagine del corpo e della sua inquietudine, la ruggine, corrode oggetti inerti in mezzo all'umido, in un mondo che ha sapore, che sa sempre più di putrido, è stupido pensare non ci siano vie d'uscita, per questo mi rinchiudo, chiudo gli occhi e sogno un'altra vita, sempre in salita, con spalle forti, il mondo dentro agli occhi, proseguo il mio cammino senza troppi sforzi, sai l'abitudine, rende il presente consuetudine, il solito turbine di te, poi l'incertezza che avvolge questa testa, non riesco più a distinguere uno schiaffo, una carezza, poco importa, resta l'amarezza e questo corpo non si arresta, sono certa, il dolore non è certo una scoperta, ma sai che lividi e brividi non li cancelli, marchiano a fuoco gli occhi e le pelli, sono i segni indelebili di storie illeggibili, di libri che chiudi e speri di non riaprirli. Musica salvami, baciami, dammi la forza di rialzarmi ancora, rafforzare la mia scorza, purifica il mio spirito come acqua sacra, alimenta il mio flusso attraverso i sette chakra. Musica salvami, baciami, dammi la forza di rialzarmi ancora, rafforzare la mia scorza, solo tu hai il potere di spezzare queste catene, alleviare le mie pene in questo finto Eden. Vivo nei miei versi, dentro questi testi, spiegartelo sarebbe inutile, non capiresti, non coglieresti un quarto di ciò che provo quando colmo un foglio sopra un beat nuovo. Sputo fuori l'odio, il rancore, tengo l'amore, sono solo un uomo che vive per questa passione, trovo pace nell'hip hop, non più nelle persone, la musica è meditazione, mantra illuminazione, quante parole scritte, versando lacrime, quante pagine strappate per non sentirti fragile, da bimbo sugli alberi tutto mi sembrava facile, ora al posto del mio cuore c'è rimasto una voragine, ora mi dirai che sono solo lettere nere, ti farei due grasse risate senza sapere quanto siano state belle e vere quelle sere, quando c'era solo il rap, un joint e un bicchiere. Musica salvami, baciami, dammi la forza di rialzarmi ancora, rafforzare la mia scorza, purifica il mio spirito come acqua sacra, alimenta il mio flusso attraverso i sette chakra. Musica salvami, baciami, dammi la forza di rialzarmi ancora, rafforzare la mia scorza, solo tu hai il potere di spezzare queste catene, alleviare le mie pene in questo finto Eden.